Capitolo 28. Infatuazioni. Cock Robin ritornò, mentre Ingleside e nella Rainbow Valley ardevano nuovamente le verdi inafferrabili fiamme della primavera, portando con sé una sposa. I due costruirono un nido nel melo di Walter e Cock Robin riprese tutte le sue vecchie abitudini, ma la sua sposa era più timida e meno audace e non lasciò mai che nessuno le si avvicinasse. Susan pensò che il ritorno di Cock Robin fosse un vero e proprio miracolo e lo scrisse a Rebecca Dew quella sera stessa. Nel piccolo teatro della vita di Ingleside i riflettori si spostavano di volta in volta, cadendo ora su questo, ora su quella. Avevano passato tutto l'inverno senza che a nessuno fosse successo qualcosa di insolito e a giugno fu il momento per Dee di avere un'avventura. Una nuova bambina aveva cominciato ad andare a scuola. Una bambina che disse, quando la maestra le domandò il suo nome, io sono Jenny Penny. Come quelle in questione direbbero io sono la regina Elisabetta o io sono Elena di Troia. Appena lo disse, si sarebbe potuto affermare che non aver conosciuto Jenny Penny ti trasformava in un nessuno e che non essere oggetto della condiscendenza di Jenny Penny significava semplicemente che non esistevi. Almeno era quello che sentì Diana Blythe, perché non l'avrebbe saputo esprimere con delle parole. Jenny Penny aveva 9 anni contro gli 8 di Dee. Da subito si unì con le ragazze grandi di 10 e 11 anni che scoprirono che non potevano ignorarla o snobbarla. Non era bella, ma il suo aspetto faceva colpo. Tutti la guardavano almeno 2 volte. Il viso era rotondo e color panna, con una soffice nuvola di capelli neri come la fuliggine ed enormi occhi blu scuro con lunghe e ingarbugliate ciglia nere. Quando alzava lentamente quelle ciglia e ti guardava con quegli occhi sprezzanti, ti sentivi come un verme al quale lei faceva dono di non schiacciarlo. Da lei era meglio essere snobbata che considerata una persona qualsiasi, ed essere scelta come confidente temporanea di Jenny Penny era un onore quasi eccessivo da reggere, perché le confidenze di Jenny Penny erano entusiasmanti. Era ovvio che i Penny non erano persone ordinarie. Lina, la zia di Jenny, possedeva apparentemente una magnifica collana d'oro e granati che gli aveva regalato uno zio milionario. Una delle sue cugine aveva un anello con diamante che era costato $1.000 ed un'altra cugina aveva vinto un premio di declamazione tra 1.700 partecipanti. Aveva una zia missionaria che lavorava in mezzo ai leopardi, in India. In poche parole, all'inizio almeno, le ragazze della scuola di Glen accettarono Jenny Penny con la stessa considerazione che lei aveva di se stessa. La consideravano con un misto di ammirazione e invidia e parlavano così tanto di lei, cenando a tavola, che gli anziani alla fine erano costretti a dare loro retta. Chi è questa ragazzina della quale Dee sembra essere tanto affascinata, Susan? Chiese una sera Anna dopo che Dee le aveva raccontato del palazzo dove viveva Jenny, con una bianca merlatura di legno attorno al tetto, 5 finestre a golfo sul retro e un meraviglioso boschetto di betulle, e nel salotto una caminiera in marmo rosso. Penny è un nome che non ho mai sentito a Four Winds. Sa qualcosa su di loro? Oh, sì, si tratta di una nuova famiglia che si è trasferita nella vecchia fattoria a Conway, sulla Baseline, signora dottora cara. Il signor Penny si dice che fosse un falegname che non si guadagnava da vivere con quel lavoro, essendo troppo occupato, mi pare di aver capito, a cercare di dimostrare che Dio non esiste, e così decise di provare con l'agricoltura. Da quello che ho potuto vedere sono un po' bizzarri. I bambini fanno quello che vogliono. Il padre dice che quando era piccolo era comandato a bacchette e che ai suoi figli non succederà la stessa cosa. Ecco perché questa Jenny frequenta la scuola del Glen. Stanno più vicini alla scuola di Mowbray Narrows e gli altri bambini vanno lì, ma Jenny ha deciso di venire a Glen. Metà della fattoria Conway sta in questo distretto, così che il signor Penny paga la tassa per entrambe le scuole e ovviamente se vuole può mandare i suoi figli in entrambe. Anche se sembra che questa Jenny sia sua nipote, non sua figlia. Il padre e la madre sono morti. Dicono che è stato George Henry Penny a mettere la pecora nel seminterrato della chiesa battista a Narrows Mowbray. Non dico che non sono rispettabili, ma sono tutti così trasandati, signora dottora cara. E la casa è sottosopra. E se mi posso permettere di dare un consiglio, non lasci che Diana venga coinvolta con una tribù di scimmie del genere. Oh, non posso impedirle di frequentare Jenny mentre è a scuola, Susan. Io non sono a conoscenza di fatti negativi che riguardino la bambina. Se Sebbene sono sicura che esagera nei racconti sui suoi parenti e riguardo alle avventure, lei probabilmente supererà presto questa infatuazione e noi non sentiremo più parlare di Jenny Penny. E invece continuarono a sentirne parlare. Jenny disse a Dee che era tra tutte le ragazze della scuola di Glenn quella che le piaceva di più. Dee ebbe la sensazione che una regina si fosse chinata verso di lei. Reagì adorandola. Divennero inseparabili negli intervalli, si scrivevano l'un l'altro dei bigliettini durante il fine settimana, si scambiavano le masticabili di gomma, barattavano i bottoni e collaboravano nelle dust piles. E infine Jenny chiese a Dee di tornare insieme a casa da scuola e stare tutta la notte da lei. Al no deciso della mamma, Dee si mise a piangere a dirotto. «Mi hai lasciata stare tutta la notte con Persis Ford!» singhiozzò. «Quello era... diverso», disse Anna in maniera un po' vaga. Voleva evitare che Dee discriminasse qualcuno per come si comportava o per chi era, ma tutto quello che avevano sentito raccontare della famiglia Penny le aveva fatto capire che non poteva nemmeno prendere in considerazione che diventassero degli amici per i bambini di Ingleside, ed era ultimamente alquanto preoccupata del fascino che Jenny in modo così evidente esercitava su Diana. «Non vedo nessuna differenza», si lamentò Dee. Jenny è tanto una lady quanto Persis, certo, non ha mai pagato la gomma che mastica. Ha una cugina che conosce tutte le regole del Galateo e da lei Jenny le ha imparate tutte. Jenny dice che noi non sappiamo che cos'è il Galateo e lei ha avuto le più emozionanti avventure. Chi te le ha raccontate? Chiese Susan. Lei stessa me le ha dette. La sua famiglia non è ricca, ma hanno parenti molto ricchi e rispettabili. Jenny ha uno zio che è giudice e un cugino della madre che è capitano della barca più grande del mondo. Jenny ha battezzato la nave per lui quando fu varata. Noi non abbiamo uno zio che sia giudice e neanche una zia che sia missionaria dei leopardi. Lebrosi, cara, non leopardi. Jenny ha detto leopardi. Credo che lei dovrebbe saperlo dal momento che è sua zia. E ci sono tante cose a casa sua che voglio vedere. La sua stanza è tappezzata di pappagalli e il loro salotto è pieno di gufi impagliati e hanno un arazzo col disegno di una casa appeso nell'entrata. E le persiane sono proprio coperte di rose e una vera casetta per giocare. Lo zio l'ha costruita per loro e sua nonna, che vive con loro, è la persona più vecchia del mondo. Jenny dice che ha vissuto prima del diluvio. Non potrò mai più avere un'altra possibilità di vedere una persona che ha vissuto prima del diluvio. La nonna è vicina ai 100 anni, dicono, disse Susan. Ma se la tua Jenny ha detto che ha vissuto prima del diluvio, ha detto una bugia, ti prenderai con molta probabilità chissà cosa. Se vai in un posto come quello. Hanno avuto tutto quello che potevano avere molto tempo fa, protestò Dee. Jenny dice che hanno avuto il morbillo e la parotite e la pertosse e la scarlattina, tutto in un anno. Oh, non sarei sorpresa se avessero avuto il vaiolo, borbottò Susan. Parli di persone che ti stanno stregando. Jenny deve fare le tonsille, singhiozzò Dee. Ma non è contagioso, vero? Jenny aveva una cugina che è morta quando le hanno tolto le tonsille, è morta dissanguata, senza recuperare la conoscenza. Quindi è probabile che succeda anche a Jenny, se è una cosa tipica di famiglia. Lei è delicata, è svenuta 3 volte la scorsa settimana, ma lei è del tutto pronta. È in parte per questo che è così ansiosa, che passi una notte con lei, affinché io possa ricordare quella notte quando sarà morta. Per favore, mamma, per favore, rinuncio al cappello nuovo con nastri se mi prometti che mi lasci andare. Ma la mamma fu irremovibile e Dee se ne andò a riempire il cuscino di lacrime. Nan non ebbe compassione, dato che disprezzava Jenny Penny. Non capisco cosa stia capitando alla bambina, disse Anna preoccupata. Lei non si è mai comportata così prima. Come dici tu, quella Penny sembra averla stregata. Ha fatto bene a rifiutare di lasciarla andare in un posto tanto lontano da sotto il suo controllo, signora dottora cara. Oh, Susan, io non voglio che lei senta che qualcuno la tiene sotto controllo, ma dobbiamo tirare una riga da non superare da qualche parte. Non è tanto per Jenny, credo che la sua amicizia non possa creare dei danni, a parte l'abitudine nell'esagerare, ma mi dicono che i ragazzi sono davvero terribili. L'insegnante di Mowbray Narrows con loro è al limite delle proprie risorse mentali. Ti triranneggiano così? Chiese Jenny altezzosamente quando Dee le disse che non aveva il permesso di andare. Io non permetterei a nessuno di trattarmi così. Ho troppo carattere io. Per esempio, dormo fuori di casa tutta la notte ogni volta che mi viene in mente di farlo. Immagino che tu non ti sei mai sognata di farlo. Dee guardava anelante quella misteriosa ragazza che aveva spesso dormito fuori tutta la notte. Che meraviglia! Non dare la colpa a me perché non vengo, Jenny. Sai che vorrei venirci. Naturalmente non do la colpa a te. Alcune ragazze non l'avrebbero sopportato, naturalmente, ma immagino che tu proprio non possa evitarlo. Avremmo potuto davvero divertirci. Avevo progettato di andare a pesca al chiaro di luna nel nostro ruscello sul retro. Noi lo facciamo spesso. Ho preso una trota lunga così e abbiamo i più graziosi porcellini e un nuovo puledro che è proprio una dolcezza e una nidiata di cuccioli. Beh, credo che dovrò chiedere a Sadie Taylor, i suoi genitori la lasciano vivere in pace. Oh, mio padre e mia madre sono molto buoni con me, protestò Dee leale. E mio padre è il miglior medico di tutta l'isola, tutti dicono così. Oh, ti dai delle arie perché hai un padre e una madre e io no, disse Jenny sdegnosamente. Allora mio padre ha le ali e indossa sempre una corona d'oro, ma io non vado in giro a vantarmi per quello. Ora, Dee, io non voglio litigare con te, ma odio sentire qualcuno vantarsi dei propri familiari. Non è etiquette. E io ho deciso di essere una lady. Quando quella Persis Ford, della quale tanto si parla, verrà a Four Winds quest'estate, non ho intenzione di frequentarla. C'è qualcosa di strano su di sua madre. Così dice zia Lina. Era sposata con un morto che è resuscitato. Oh, non è stato affatto così, Jenny. Lo so, la mamma mi ha detto. Zia Leslie, non voglio sentirne parlare, qualunque cosa sia, è qualcosa che sarebbe meglio non trattare di. Oh, c'è il campanello. Davvero inviterai Sadie? Chiese Dee con voce strozzata e gli occhi dilatati dal dolore. Beh, non proprio subito. Aspetterò per vedere. Forse ti darò un'altra possibilità, ma se lo faccio sarà l'ultima. Pochi giorni dopo, Jenny Penny andò da Dee durante la ricreazione. Ho sentito Jem dire che i tuoi pa e ma sono andati via ieri e che non torneranno fino a domani sera. Sì, sono andati ad Avonlea per vedere la zia Marilla. Allora è la tua occasione. La mia occasione? Per rimanere tutta la notte con me? Oh, Jenny, ma non posso. Certo che puoi. Non essere sciocca, non lo sapranno mai. Ma Susan non me lo permetterà? No, a lei non devi chiederlo, solo vieni a casa con me da scuola. Nan può dirle dove sei andata, così lei non sarà preoccupata e non ti denuncerà quando i tuoi pa e ma tornano. Avrà troppa paura che le diano la colpa. Dee era tormentata dall'indecisione. Sapeva benissimo che non doveva andare con Jenny, ma la tentazione era irresistibile. Jenny girò tutta la batteria dei suoi straordinari occhi verso Dee. Questa è la tua ultima possibilità, disse in modo drammatico. Non posso continuare a frequentare qualcuno che si crede troppo importante da farmi visita. Se non vieni, ci separeremo per sempre. Quello risolse tutto. Dee era ancora in balia del fascino di Jenny Penny. Non poteva affrontare il pensiero di una separazione per sempre. Nan tornò a casa da sola quel pomeriggio e disse a Susan che Dee era andata a stare tutta la notte con quella Jenny Penny. Se Susan fosse stata nella sua abituale condizione fisica, sarebbe andata subito dai Penny e avrebbe riportato a casa Dee. Ma quella mattina si era slogata una caviglia e mentre poteva arrangiarsi zoppicando nei paraggi e preparare i pasti dei bambini, sapeva che non avrebbe mai potuto camminare per un miglio fin giù la strada di Baseline. I Penny non avevano il telefono e Jem e Walter categoricamente rifiutarono di andarci. Erano stati invitati al faro per delle cozze al forno e nessuno si sarebbe mangiata di dai Penny. Susan dovette rassegnarsi all'inevitabile. Dee e Jenny andarono a casa attraverso i campi, per cui dovevano fare poco più di un quarto di miglio. Nonostante la coscienza che pungolava, Dee era felice. Passarono attraverso così tante belle cose, piccoli quartieri di felci infestati dagli elfi, nelle radure di un verdissimo bosco, nella piccola valle frusciava il vento mentre avanzavano nei ranuncoli fino alle ginocchia. Una tortuosa stradina sotto giovani aceri, un ruscello che era un nastro iridato di fiori, un pascolo soleggiato pieno di fragole. Dee, appunto risvegliata dal co di colpo di tale bellezza che le stava attorno, era estasiata e quasi desiderava che Jenny non parlasse così tanto. Quello andava bene a scuola, ma lì non era più sicura di voler sentire di quella volta che Jenny si avvelenò, ovvio, zaccidentalmente, prendendo il tipo sbagliato di medicina. Jenny dipingeva finemente la propria straziante morte, però fu un po' vaga riguardo alla ragione per cui ancora non fosse morta. Aveva perso coscienza, ma il dottore era riuscito a tirarla indietro dal baratro della tomba. Benché da allora non sia mai tornata ad essere la stessa. Dì, Blythe, che cosa hai da guardare? Penso proprio che non mi stavi ascoltando. Oh, sì, certo, disse Dee colpevolmente. Io credo che tu abbia avuto una vita meravigliosa, Jenny, ma guarda la veduta. La veduta? Cos'è la veduta? Ma qualcosa che stai guardando, quello? Accennando con la sua manina al panorama che avevano di fronte a loro, la prateria, il bosco, la collina avvolta tra le nuvole e quella tacca color zaffiro che era il mare tra i crinali. Jenny tirò su con il naso. Oh, solo un sacco di vecchi alberi e mucche, li ho visti centinaia di volte. Sei terribilmente divertente con i tuoi comportamenti, Dee Blythe. Non voglio ferire i tuoi sentimenti, ma a volte penso che tu sia un po' pazza. Davvero? Ma immagino che tu non possa farne a meno. Dicono che tua madre delira sempre in questa maniera. Beh, siamo arrivati. Dee guardò la casa dei Penny e sperimentò il colpo della sua prima disillusione. Questo era il palazzo del quale Jenny le aveva parlato? Era abbastanza grande, certamente, aveva le cinque finestre a golfo, ma aveva miseramente bisogno di una ripitturata e mancava gran parte della merlatura di legno. La veranda era in rovina e quella che era stata una bella lanterna sulla porta d'ingresso era rotta. Le persiane erano storte e c'erano diversi riquadri di carta marrone. Il bel boschetto di betulle dietro la casa era rappresentato da alcuni sottili, nodosi vecchi alberi. Le stalle erano in una condizione pietosa, il cortile era pieno di vecchi macchinari arrugginiti e il giardino era una perfetta giungla di erbacce. Dee non aveva mai visto un posto simile nella sua vita e per la prima volta le venne in mente di chiedersi se tutte le storie di Jenny fossero vere. Poteva qualcuno essere stato ad un passo dalla morte, benché avesse solo 9 anni, come lei dichiarava di essere stata? All'interno non era molto meglio. La sala nella quale Jenny l'accompagnò era ammuffita e polverosa. Il soffitto era scolorito e coperto di crepe. La famosa caminiera in marmo era solo dipinta. Persino Dee poté notarlo. Era drappeggiata con un'orrenda sciarpa giapponese tenuta ferma da una fila di tazze moustache. Le tendine di pizzo con frange erano di un brutto colore, piene di buchi. Le tende erano blu, di carta, molto logore e lacerate, con un immenso cesto di rose dipinto sopra. E riguardo al salotto pieno di gufi impagliati, in un angolo c'era una piccola teca di vetro che conteneva 3 uccelli piuttosto arruffati e a uno mancavano del tutto gli occhi. Per Dee, abituata al bello e al decoro di Ingleside, la stanza sembrava qualcosa che stesse vedendo in un brutto sogno. La cosa strana, però, era che Jenny sembrava inconsapevole della discrepanza tra le sue descrizioni e la realtà. Dee si chiese se non avesse solo sognato che Jenny le aveva raccontato di questo e di quello. Fuori non era poi così male. La piccola casa per giocare che Mr. Penny aveva costruito in un angolo ben tenuto sembrava una vera casa in miniatura. Era un luogo molto accattivante e i porcellini e il nuovo puledro erano proprio graziosi. Riguardo a quella cucciolata di bastardini, erano dei deliziosi batuffoli che potevano anche essere della casta canina dei Verdever. Uno era particolarmente adorabile, con delle lunghe orecchie marroni, una macchia bianca sulla fronte, una minuscola lingua rosa e le zampe bianche. Dee apprese con grande disappunto che tutti i cuccioli erano già stati promessi a qualcuno. Anche se non so come avremmo potuto dartene uno, seppure ce ne fossero stati, disse Jenny. Lo zio è terribilmente puntiglioso su dove mettere i suoi cani. Abbiamo sentito che non è possibile fare in modo che un cane rimanga a Ingleside. Ci deve essere qualcosa di strano su da te. Lo zio dice che i cani sanno cose che la gente non sa. Oh, sono sicura che non possono sapere niente di male su di noi, gridò Dee. Beh, spero di no. Tuo padre è crudele con tua madre? Ma no, certo che no. Beh, ho sentito che lui la picchia finché lei non urla. Certo, io non ci credo. Non sono terribili le bugie che raccontano le persone. In ogni caso, mi sei sempre stata simpatica, Dee, e starò sempre dalla tua parte. Dee sentiva che avrebbe dovuto essere molto grata per questo, ma chissà perché non lo era. Cominciava a sentirsi molto a disagio e l'incanto con il quale Jenny si era insediata nei suoi occhi era improvvisamente e irrimediabilmente sparito. Non sentiva più il vecchio brivido di quando Jenny le aveva raccontato di quella volta che era quasi annegata, cadendo in un bacino d'acqua per il mulino. Lei non ci credeva, Jenny le aveva solo immaginate quelle cose. Probabilmente pure lo zio milionario e l'anello con diamante da 1.000 dollari e la missionaria dei leopardi erano stati inventati. Di si sentiva esattamente come un pallone bucato. Ma c'era ancora la nonna, sicuramente la nonna era reale. Quando Di e Jenny ritornarono in casa, zia Lina, una signora con un abbondante petto, due rosse guance e con addosso uno stampato di cotone non tanto nuovo, disse loro che la nonna voleva vedere l'ospite. La nonna è costretta a letto, spiegò Jenny. Portiamo sempre tutti quelli che vengono qui a farle visita. Lei si arrabbia molto se non lo facciamo. Attenti a non dimenticare di chiederle come va il suo mal di schiena, avvertì zia Lina. Non le piace la gente che non si ricorda della sua schiena. E lo zio John, disse Jenny, non dimenticare di chiederle come lui sta. Chi è lo zio John? Chiese Dee. È un suo figlio che è morto 50 anni fa, spiegò zia Lina. È stato malato per anni prima di morire e la nonna si abituò parecchio a sentire la gente chiederle come stava e la cosa le manca. Davanti alla porta della camera della nonna, Dee improvvisamente fu riluttante. D'un tratto le venne una gran paura di quella donna incredibilmente vecchia. Che c'è? Chiese Jenny. Nessuno ti morderà. Lei è veramente vissuta prima del diluvio, Jenny? Certo che no, chi te l'ha detto? Ma ne avrà 100. Però se vive fino al suo prossimo compleanno. Andiamo. Dee cautamente andò. In una piccola camera da letto estremamente ingombra, la nonna giaceva in un enorme letto. Il suo volto, incredibilmente rugoso e avvizzito, sembrava una vecchia scimmia. Scrutò Dee con i suoi occhi infossati e cerchiati di rosso e stizzita disse: Smettila di fissare, chi sei? Questa è Diana Blythe, Gammy, disse Jenny piuttosto sommessamente. Bah, un bel nome altisonante. Mi hanno detto che hai una sorella superba. Oh, Nan non è superba, esclamò Dee con un lampo di coraggio. Era stata forse Jenny a parlar male di Nan. Sei un po' impertinente, non credi? Non sono stata allevata a parlare così alle persone anziane. Lei è superba. Qualsiasi persona che cammina con la testa in aria come la giovane Jenny mi dice che lei fa, è superba, una delle tante altezzose, e non mi contraddire. La nonna sembrava tanto arrabbiata che Dee si affrettò a domandarle come stava con la schiena. E chi dice che ho una schiena? Quale presunzione? Per la mia schiena sono affari miei. Vieni qui, avvicinati al mio letto. Dee si trovò desiderosa di trovarsi a 1.000 miglia di distanza. Che cosa aveva in mente di farle quella terribile vecchia donna? La nonna si spostò bruscamente sul bordo del letto e mise la curva mano sui capelli di Dee. Una sorta di carota, ma veramente di prima qualità. Hai un bel vestito, sollevalo e mostrami la tua sottogonna. Dee obbedì felice di avere indosso la sua sottogonna bianca di pizzo rifinita all'uncinetto da Susan. Che razza di famiglia era questa? Dove dovevi mostrare la tua sottogonna? Ho sempre giudicato una ragazza dalle sue sottogonne, disse la nonna. Le tue passano. Ora le mutande. Dee non osò rifiutare. Sollevò la sottogonna. Bah, di pizzo anche loro. Questa è stravaganza. E non ti sei neanche informata di John. Oh, sì, come sta? Ansimò Dee. Come sta? Dice, spudorata. Potrebbe essere morto per quello che si sa. Dimmi una cosa, è vero che tua madre ha un ditale d'oro? Un ditale d'oro massiccio? Sì, papà glielo ha dato al suo ultimo compleanno. Beh, non ci avrei mai creduto. La giovane Jenny me l'aveva detto, ma non si può credere a una parola di quello che dice. Un ditale d'oro massiccio. Non ho mai sentito una cosa simile. Beh, è meglio che usciate e andiate a fare cena. Mangiare non passa mai di moda. Jenny, tira sui pantaloni. Uno penzola dalla gamba sotto il vestito. Cerchiamo di avere almeno un po' di decenza. Oh, i miei calzomutande non penzolano, replicò Jenny indignata. Calzoni per i Penny e mutande per i Blythe. Questa è la differenza tra di voi e lo sarà sempre, e non mi contraddire. Tutta la famiglia Penny era riunita per la cena attorno al tavolo nella grande cucina. Dee non aveva mai visto nessuno prima, eccetto zia Lina, ma come diede un rapido sguardo tutto intorno capì perché la mamma e Susan non volevano lasciarla venire. La tovaglia era rotta e macchiata con vecchie macchie di salsa, i piatti erano un vero e proprio campionario e in quanto ai Penny non si era mai seduta così a tavola con una tale accolita e desiderò essere al sicuro a Ingleside, ma ora non poteva far altro che andare fino in fondo. Lo zio Ben, come lo chiamava Jenny, sedeva a capochino. Aveva una barba di un rosso fiammante e una testa calva con qualche frangia grigia. Suo fratello Parker, scapolo magro e con la barba lunga, si era disposto in un angolo comodo per sputare nella scatola di legno, cosa che faceva ad intervalli frequenti. I ragazzi, Kurt, 12, e George, Andrew, 13, avevano gli occhi vitrei, di un azzurro pallido, con uno sguardo sfacciato e attraverso i buchi nelle logore camicie si vedeva la pelle. Kurt, che si era tagliato la mano con una bottiglia rotta, l'aveva bendata con uno straccio tutto sporco di sangue. Annabel Penny, 11, e Gert Penny, 10, erano due bambine piuttosto carine, con gli occhi rotondi e castani. Tappy, di 2 anni, aveva dei deliziosi riccioli e guance rose. E il piccolo, con occhi birichini neri in grembo a zia Lina, sarebbe stato adorabile se fosse stato pulito. Kurt, perché non ti sei pulito le unghie quando sapevi che avevamo visite? Chiese Jenny. Annabel, non parlare con la bocca piena. Io sono l'unica che cerca sempre di insegnare le buone maniere a questa famiglia, spiegò a Dean in disparte. Stai zitta, disse zio Ben con una voce tonante. Non voglio stare zitta, non puoi farmi tacere, gridò Jenny. Non fare l'impertinente con tuo zio, disse zia Lina placidamente. Su via, ragazze, comportatevi come delle dame. Kurt, passa le patate a Miss Blythe. Oh, Miss Blythe, ridacchiò Kurt. Ma Diana, almeno un brivido lo ottenne. Per la prima volta in vita sua era stata chiamata Miss Blythe. Sorprendentemente il cibo era gustoso e abbondante, e Dee, che aveva fame, avrebbe goduto del pasto, benché odiasse bere da un bicchiere scheggiato. Se solo fosse stata sicura che era pulito e se tutti non litigassero in quella maniera. Per tutto il tempo ci furono liti incrociate tra George, Andrew e Kurt, tra Kurt e Annabel, tra Gert e Jen, perfino tra lo zio Ben e la zia Lina. Ebbero una terribile lite e si lanciarono le accuse più spaventose. Zia Lina rinfacciò a zio Ben tutti gli ottimi uomini che avrebbe potuto sposare e lo zio Ben disse che desiderava soltanto che lei avesse sposato chiunque altro eccetto lui. Non sarebbe terribile se mio padre e mia madre combattessero in quella maniera, pensò Dee. Oh, se solo fossi a casa. Non ti succhiare il pollice, Tappy. Lo disse senza pensare. Loro ci avevano impiegato così tanto tempo per togliere a Rilla l'abitudine di succhiarsi il pollice. Immediatamente Kurt diventò rosso di rabbia. Lascialo in pace, gridò. Lui si può succhiare il pollice se gli piace. Non è comandato a bacchetta come voi, bimbi di Ingleside. Chi ti credi di essere? Kurt, Kurt, Miss Blythe penserà che non hai delle buone maniere, disse zia Lina, nuovamente calma e sorridente, e mise 2 cucchiaini di zucchero nel tè dello zio Ben. Non preoccuparti per lui, cara, prendi un altro pezzetto di torta. Dee non voleva un altro pezzo di torta, Dee voleva solo andare a casa e non vedeva come avrebbe potuto farlo. Beh, tuonò lo zio Ben mentre finiva di bere il suo tè rumorosamente dal piattino. Anche questa, detto e fatto. Alzarsi la mattina, lavorare tutto il giorno, mangiare 3 pasti e andare a letto. Che vita! Pa ama queste piccole battute, sorrise zia Lina. Parlando di battute, ho visto il ministro metodista oggi nel negozio di Flegg. Ha cercato di contraddirmi mentre dicevo che Dio non c'è. Tu parli di domenica, gli ho detto. Ora è il mio turno. Dimostrami che c'è un Dio, gli ho detto. Sei tu quello che ha la parola, disse lui. Risero tutti come sciocchi. Avrà detto qualcosa di spiritoso. Non c'è Dio? A Dee sembrò che il mondo stesse cadendo a pezzi. Aveva voglia di piangere.